cazzo. Raga, fa. Quanto passo sono? Insomma. Pensiato. Così così. Ma sai chi dico, appena dai. Perché siamo fatti stazionari, capito? È forse meglio? Insomma, è un po' di quarrennato, capito? Oh, ma ancora di più. Oh, là, è sul 54. Guarda un po'. Torna. Nazionale, mela. Oltre stazionale, ecco. Certo. Qua su su. Non so come tu mi vuoi gli ascolti, però la radio è un bel bassa. Oh, io ti ascolto benissimo. Sentiamo 9, RRC. Sai come sta macchina? E se ho altro frappa le volte, mi capisco. Guarda un po', così ha migliorato. E il mazzo sento. Aspetta che faccio una cosa, come? Nulla, mazzo. Stazionale, sicuramente. C'è problema a salire 27635, poi facciamo una prova lì. Molto più bassa le onde stazionali, capito? Quindi faccio una prova a vedere se vuoi far segnare. Capito, vai su. Prova 27635. 27635. Ok, vai. Risulti, non rientro più, sono 100 euro, macchine 250 dietro nelle cassette di un computer e basta, ma poca roba là. Adesso sono a 50 ore, non ci rientro. Poi cazzo, cazzo. Io vabbè, poi intanto lo accendo anche. Il problema non è il mio, il problema è di quel cazzo che non c'è la metà di scatti lui, capito? Sono tutti giocato, già le conosci magari, cazzo, è lì che devo prendere tutto quanto. Poi è logico, quando rientri poi la colpa la vanno a uno, all'altro e va a scaricare a salire e continuo. Ehi, ho fatto il trattato, sicuramente, aspetta, passa un po'. Oh, la poi attacco con adesso al picco e beh, più vicinato ci sta di lì, è un po' brutto vento ragazzi, che qui cazzo ieri abbiamo fatto una gara di coppa capo sportivo c'era una settantina di cazzo cazzo è proprio vento ma è un cazzo ragazzi ha detto così, ma fai il corpo, fai il corpo arrivato, di botto, di botto. Sì, adesso mi ci viene inverno. E' vestito, davvero possiamo lavorare bene, tutto qua. E così è, purtroppo non c'è l'estate, c'è l'inverno. E beh, mi ha fatto caldo fuoco, guarda. Ma pure, già mi hanno fatto il caldo quest'estate. Abbastanza. E purtroppo ci dobbiamo accontentare di quello che passa di giubilito. È positivo, vabbè. È un casino, grande. Questo casino. Stavo. Ecco qua. Vabbè, e qua devo trovare un giorno nuovo, salire sul tetto e mettere un po' l'antenna, perché qua un po' di stazionarie questa frequenza, un bel po'. 25, magari ci dicono di meno. O la sali in alto o in basso, e quello è il problema. Pure prima andava benissimo con la mano, ai vecchi tempi andava tutto bene. Quando è così ci vuole un'antenna nuova, purtroppo l'unica per la bella bimbanda in faccia tutte le frequenze che ha bel guadagno elevato e poco piace un bella paratì accordato l'antenna e non sotto vabbè uno che c'è l'accordatore già puoi andare alla grande sì, già va bene sì. Questo già c'è protezione quando ci sarà l'onda stazionale del vato. Ma è protezione automaticamente il sistema che farà ciò che si fino a qua può fare vabbè ma ragazzo è un casino ma mi la guardo sì adesso sto là sta a fare il mangio poi passa al fuoco ieri ho fatto l'impianto Audi anche in quella gara e poi era tutto quasi sotto l'acqua era contato più vigilato. Manco un telone ci avrebbe, poi è da fare, si brucia tutto, poi c'è riuscito su niente. Acqua gappa. Eia eia. Acqua due anche ghiacciati. Come? Le gambe ghiacciate, sono tanto luci in camera. Aspetta. Uia. Già cambiata la separazione, ragazzi. Io stavo per fare. Non mi sono messo in la ginnastica, sto pronto, ma quando... Casino, mi alzo, 10 minuti, vado a mangiare il cane. Perché il cane si sta tremando? No, se ti fa sentire al 10 dopo, dopo il grande Claudio. Oh, scappa, se c'è nel 15 ti rientrate. 26, senta, non ho altro più. 10, 27 0,75 10 0,75 Leo. Vabbè, già aggiunto di dire. Adesso lo lascio di dire, sono 75 direttamente, lo lascio acceso. Faccio un po' di carica, magari già un po' dopo. Vabbè, adesso la